più niente mi appartiene nel più fragile ricordo. Io non so più che cosa è vero. Io che ho tradito e rinnegato. Una donna grigia come pietra sfama il figlio di nessuno. Si allunga il mio cammino. Prostitute tutte uguali, labbra nere di ferita. Un viso che è la moltitudine. Conservato.